La fede dei cristiani è basata da sempre sulla parola di Dio, la Bibbia. Il termine Bibbia deriva dal greco che significa raccolta di libri. Infatti la Bibbia non è un unico libro, ma è composta, per quanto riguarda il canone protestante ed ebraico, di 66 libri. Questi libri non sono stati scritti in questi giorni neppure da alcuni anni o secoli, ma da alcuni millenni. Infatti, il più giovane libro della Bibbia ha quasi 2000 anni. Inoltre, essi non sono stati scritti da persone della nostra cultura, ma da persone che avevano una cultura semitica, cioè orientale. Questi dati comportano tutta una serie di problemi, uno tra i quali è comprendere il significato delle loro parole e quindi delle loro espressioni. Facciamo un esempio. Ammesso che io non abbia mai letto niente di ciò che è scritto nella Bibbia, e inizi a leggere il Vangelo di Matteo, incontro subito, alle prime parole, grosse difficoltà di comprensione. Libro della generazione di Gesù Cristo, figlio di Davide. Chiunque legge una simile proposizione senza preconcetti comprende, come me, che Gesù Cristo è figlio di Davide. Non vi sono dubbi. Per cui, con questa comprensione non posso che affermare e insegnare, se ho tale compito, che Davide aveva un figlio di nome Gesù Cristo. Un'altra persona, più afferrata nella cultura ebraica, sostiene che la mia comprensione di tale proposizione non corrisponde alla verità. Ma io, che ho letto senza ombra di dubbio che Gesù Cristo è figlio di Davide, continuo a sostenere che non posso sbagliarmi, perché ho letto e sta scritto che Gesù Cristo è figlio di Davide. Inevitabilmente ne nasce una controversia. Questo, in linea di principio, è ciò che succede in certi ambienti, dove la Bibbia, cioè la parola di Dio, è l'unica fonte in materia di fede e di condotta. Si cita la parola di Dio per sostenere opinioni e dottrine, ma il contenuto delle loro esposizioni a volte non corrisponde a ciò che la parola di Dio vuole sostenere. Posso per tutta la vita predicare con la più profonda convinzione che Gesù Cristo è figlio di Davide, senza per questo rendere ragione alla parola di Dio. È vero che Gesù Cristo è figlio di Davide, ma non nel senso che Davide aveva un figlio di nome Gesù Cristo. Secondo la cultura ebraica, Gesù Cristo viene definito figlio di Davide, perché è discendente dal ceppo genealogico del re di Israele, oppure perché è appartenente alla stessa fede. Per questo Gesù Cristo non viene solo definito figlio di Davide, ma anche figlio di Abramo. Il termine figlio nella scrittura è polisemico, cioè ha più significati, e chi legge la parola di Dio deve tenerne conto per non incorrere errori che potrebbero essere fatali. Vi è un'altra problematica. Quando frequentavo le elementari la maestra, perché imparassimo, ci faceva leggere pagine intere di alcuni racconti. Di tanto in tanto chiedeva ad alcuni alunni che cosa avevano capito, e a volte alcuni di questi non sapevano rispondere. Sapevano leggere ma non comprendevano ciò che leggevano. Un fatto non eccezionale. Da vari anni ho il piacere di insegnare la parola di Dio ad alcuni ragazzi dai 13 ai 20 anni d'età. Spesso leggiamo alcuni episodi descritti in essa. E ho notato che alcuni leggono abbastanza speditamente, ma quando chiedo a loro che cosa hanno letto, devono rileggere di nuovo per potermi rispondere. Dunque, capire ciò che si legge non è da tutti. Per questo diventa più che mai urgente non solo leggere la Bibbia, ma comprenderla. Comprendere la Scrittura è indispensabile per poter compiere la volontà di Dio, per poterla insegnare correttamente, per vivere bene, e soprattutto perché si evitano quegli scontri di opinioni così frequenti tra i figli di Dio. Non vi è dubbio che i figli di Dio leggano le Scritture, non vi è dubbio che amino il loro Salvatore, non vi è dubbio che desiderino onorare Gesù Cristo, eppure, quante divisioni e duelli su versetti e dottrine, e questo perché la loro comprensione delle Scritture è diversa. Ancora una volta dobbiamo onestamente chinare il capo davanti ad una verità lapalissiana. Noi non siamo fedeli alla Scrittura, ma alla comprensione che abbiamo di essa. L'errore di comprensione relativo a un termine poco usato, pur distorcendo il pensiero della scrittura, procura un danno limitato. Ma nel caso di un termine usato non solo decine di volte, o centinaia ma migliaia di volte, la comprensione errata di un vocabolo può portare a stravolgere completamente ciò che la parola di Dio ci vuole comunicare. Uno di questi termini usati migliaia di volte nella scrittura come, nel nostro linguaggio, è la parola Dio. Noi diciamo «Io credo in Dio, che Dio ti benedica, Dio mi ha parlato». Poiché in tutte queste espressioni il soggetto è Dio, secondo il concetto che abbiamo di Dio, cambia anche il significato di ciò che stiamo dicendo. Se ad esprimerle è un cristiano, ha un significato, se invece è un musulmano, ne acquisisce un altro, nonostante ostinatamente si continui a sostenere che abbiamo lo stesso Dio. Non possiamo perciò ammettere compromessi per ciò che riguarda l'unico Dio. Diciamo subito che la parola Dio nell'Antico Testamento non ha assolutamente lo stesso significato che le attribuiamo noi oggi. Infatti, mentre nell'ambito del mondo monoteista la parola Dio ha il significato di creatore, essere supremo, padre, nella mente di un ebreo dell'epoca aveva un significato sicuramente più povero, per quanto fosse ovviamente riferito a un essere superiore. Una simile affermazione lascia senz'altro sbalorditi, perché nelle nostre Bibbie troviamo scritto la parola Dio, non solo decine di volte, neppure centinaia, ma migliaia di volte. Infatti già l'ultima delle tre parole iniziali del primo libro della Bibbia, il Genesi, è il termine Dio. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. È vero che la parola Dio nell'Antico Testamento si trova circa 3.000 volte, ma si tratta di una traduzione imprecisa, o sarebbe meglio dire che è la traduzione propria di un termine che nella storia del pensiero umano ha assunto un improprio significato. Come leggiamo anche nel glossario di alcune Bibbie nella lingua originale dell'Antico Testamento, l'ebraico, il termine relativo è Elohim, cioè un sostantivo esclusivamente plurale, la cui esatta traduzione si rende con Dei o, più corretto, Dii, un plurale generico, e il cui significato è divinità. Il fatto che tale termine fosse un plurale ci induce a pensare che per gli ebrei la parola Elohim non fosse indicativa di una persona come erroneamente immaginiamo, ma che questo termine plurale fosse teso a indicare un qualcosa che non è in quest'epoca ancora distintamente definito, ma che pare si voglia anticipare. Quando leggiamo la parola Dio nell'Antico Testamento dobbiamo attribuirle il significato di divinità, essere divino. In sintesi, quando un ebreo dell'epoca dichiarava che il suo Elohim era l'Elohim di Israele, non faceva nella sostanza una dichiarazione diversa da un greco che dicesse che la sua divinità era Giove. Nel testo ebraico compare anche un altro termine, Eli, che viene a sua volta tradotto con la parola Dio, come troviamo scritto ad esempio in Giudici 16 e 23. Ora i principi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro Dio, e per rallegrarsi. E al capitolo 11, versetto 24, «Non possiedi tu quello che Chemosh, il tuo Dio, ti ha dato di possedere?» Purtroppo chi legge la Bibbia, anche a causa delle traduzioni improprie, generalmente non riesce a cogliere questa sfumatura. Ripetiamo che bisogna tener presente che i testi sono tradotti da persone che hanno subito da generazioni un condizionamento storico nel pensiero, il quale forma un presupposto di partenza e impedisce di vedere il reale senso della parola o frase in questione. Questa è la vera causa della traduzione errata. Troviamo il termine Dio scritto diversamente anche nel secondo comandamento: non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché io, l'Eterno, Yahweh, tuo Dio, Elohim, sono un Dio. È il geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Esodo 25. Vi è una curiosità in merito che vale la pena sottolineare. Leggiamo nelle Bibbie che quando Giacobbe lottò con Dio, cioè l'Eterno, questi gli pose nome Israele, perché aveva lottato con Dio, per questo non ho capito come si possa sostenere che Giacobbe abbia lottato con un essere angelico. Se teniamo presente l'ebraico, il nome che l'Eterno diede a Giacobbe è Israele. Quel è il finale, corrisponde a ciò che l'Eterno disse a Giacobbe: tu hai lottato con Dio, El Kaige, e hai vinto. Per cui Isra sta che tu hai lottato, El Kaige sta per Dio. Il nome, italianizzato Israele, nasconde una verità meravigliosa. Ancora una volta ciò dimostra che non stiamo spaccando un versetto o una parola in quattro, ma si tratta di comprendere ciò che leggiamo. Che la parola Elohim abbia il significato di divinità lo dimostra il fatto che anche le divinità degli altri popoli venivano chiamate Elohim, cioè con lo stesso termine usato dagli ebrei per la loro divinità. Prendiamo come esempio l'introduzione ai 10 comandamenti. Allora Dio pronunziò tutte queste parole, dicendo: io l'Eterno, Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Questa introduzione merita un piccolo esame. Il capitolo inizia inducendoci a una presa di coscienza su come dobbiamo capire Dio, cioè l'Elohim, la divinità che parla. Allora Dio pronunziò tutte queste parole. Poi continua: io, l'Eterno. La divinità di Israele, una divinità definita in modo vago, con un altrettanto vago e comune vocabolo, Elohim, si presenta però come una persona, io, e con il suo vero nome, cioè Yahweh. Il discorso di Yahweh è dunque questo: chi ti parla non è una divinità vaga, impersonale, indefinita, come tutte le altre, ma sono io, Yahweh, colui che ti ha salvato e che ha una identità precisa. Dopo aver mostrato la sua carta di identità, il suo vero nome, Yahweh, l'Elohim di Israele, continua dicendo: Dio tuo. In definitiva, Yahweh sta asserendo che lui ora è diventato la divinità del popolo di Israele, perché lo ha salvato facendolo uscire mediante opere potenti dal paese di Egitto. Dopo aver attestato con dimostrazione tangibile dei fatti la propria opera di salvatore del popolo, Yahweh ordina nel primo comandamento: non avrai altri dei davanti a me. In ebraico sta scritto: non avrai altri Elohim davanti a me, cioè non avere altre divinità oltre me, o di fronte a me. Perché l'Elohim che ti ha salvato e che è degno di adorazione sono io e nessun altro. Una dimostrazione che il nome Elohim sia plurale, sia quando in ebraico troviamo Elohim riferito alle divinità straniere. I traduttori rendono il termine con dei, come abbiamo letto nei 10 comandamenti, e come leggiamo in Deuteronomio 6 e 14, non seguirete altri dei, Elohim, fra gli dei. Elohim dei popoli che vi circondano. Anche Giudici 10:6. Proprio per questo stupiscono più che mai le prime parole della Bibbia, quando un nome plurale è seguito da un verbo al singolare. Nel principio, Dio, Elohim, creò i cieli e la terra. Il termine Elohim, nonostante sia un sostantivo, che è esclusivamente plurale, quando è riferito alla divinità di Israele, è seguito da verbi e possessivi al singolare. Un esempio lo abbiamo nel libro dei Giudici. Allora i figli di Israele gridarono all'Eterno dicendo: abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Elohim e abbiamo servito i Baal. Giudici 10:10. Anche le espressioni quali il mio Dio o il Dio di Israele hanno l'articolo al singolare. Se siamo in grado ogni volta che leggiamo il termine Dio di tradurlo con il termine più preciso divinità, avremo una comprensione più vicina alla rivelazione di Gesù Cristo. Nella Bibbia Nuova Riveduta con riferimenti paralleli, nell'indice biblico troviamo scritto alla parola Dio la seguente proposizione: il creatore dei cieli e della terra. L'ebraico Elohim è una parola con terminazione al plurale che indica gli dei delle nazioni pagane, ma in altri contesti indica il Dio unico di Israele. Oltre a questo indizio, anche alcuni passi dell'Antico Testamento ci inducono a considerare un concetto di molteplicità all'interno dell'unica divinità, fino a scorgere nel Nuovo Testamento che Dio si manifesta in tre persone. Il suo nome è Yahweh. Questa spiegazione concorda molto con ciò che abbiamo detto, ma occorre precisare una cosa. Affermare che Dio sia il creatore dei cieli e della terra, senza conoscere le sfumature che abbiamo preso in esame, porta il lettore ad avere una comprensione sbagliata. Quando leggiamo che Dio è il creatore di ogni cosa, tenuto presente che il termine ebraico Elohim sta per divinità, dobbiamo innanzitutto ricordarci che l'Elohim di Israele, e non un altro, ha creato tutte le cose. In seguito, poiché abbiamo notato che il termine Elohim è un sostantivo plurale, al quale però si riferiscono verbi espressi in forma singolare, siamo indotti da questo fatto straordinario a concludere che vi sia un concetto di molteplicità all'interno dell'unica divinità di Israele. Come cristiani, infatti, crediamo che in Dio, nella divinità di Israele, sussistano tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. A questo punto la domanda che dobbiamo porci è: chi dei tre ha creato? O hanno creato tutti e tre? È vero che Dio è uno in quanto a natura, ma poiché in Dio sussistono tre persone, e poiché ogni persona è distinta dall'altra, non possiamo fare di tutte le erbe un fascio. Una cosa è sicura: a creare non è stato il Padre o lo Spirito Santo, ma Cristo, il Figlio di Dio. Gli apostoli non avevano dubbi al riguardo. Giovanni inizia il suo Evangelo con queste parole: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Giovanni 1:1-3. L'esecutore di ogni cosa creata è stata la parola, e la parola è il Lui di Giovanni, è Gesù Cristo. Detto questo, noi siamo responsabili di spiegare cosa vogliamo affermare quando parliamo di Dio. Poiché il termine Dio è l'equivalente del termine ebraico plurale, Elohim, questo termine non è un nome proprio, ma un sostantivo comune di persona che nel corso della storia, esso amasse, stato privato del senso suo originale, diventando nel pensiero comune nome proprio di persona, singolare e, azzarderei dire, anche astratto per la sua distanza dalla nostra quotidianità. Sarebbe come dire che Carlo è un muratore. Se mi riferisco a Carlo, so a chi mi riferisco. Se parlo del muratore, il termine può essere riferito a qualsiasi muratore diverso da Carlo. Inoltre posso anche arrivare a parlare del muratore Carlo, definendolo e chiamandolo soltanto muratore, facendo così di un semplice nome comune un nome proprio con il quale intendo la sua persona specifica, Carlo, ma che può trarre in inganno chi, udendomi dire muratore, non sa che quello è il nome con il quale io chiamo Carlo. Questo è, in sintesi, la realtà di ciò che è accaduto nei secoli. Così, se parliamo di Dio, con tale termine ci rivolgiamo ad un essere supremo. Ma non lo conosciamo. Sappiamo che è divino, ma le sue caratteristiche ci sono nascoste. Solo con la venuta di Gesù Cristo, il quale è nel seno della Trinità, possiamo comprendere meglio Dio come la deità distinta da ogni altro Dio o divinità a cui l'uomo rivolge la propria attenzione. Così, se diciamo che chi ha creato ogni cosa è Cristo, noi specifichiamo la nostra fede nel Creatore, unico vero Dio di tutta la terra, del quale conosciamo l'identità certa e inequivocabile. Nel Nuovo Testamento, che è stato scritto in greco, troviamo abbondantemente il termine Theos, cioè Dio, ma anche in questo caso dobbiamo capire il vero significato. Una cosa è certa: il termine Theos ha più riferimenti. Poiché il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, è evidente che tale termine non è a senso unico. A volte Theos è riferito al Padre, Efesini 1:3, a volte al Figlio, Giovanni 1:1, e a volte allo Spirito Santo, Atti 5:4. Non solo. A volte il sostantivo Dio è riferito a tutti e tre, cioè alla Trinità. L'esempio lo troviamo in 1 Timoteo 2:5. Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Quando affermiamo che vi è un solo Dio, Vogliamo sostenere che vi è una sola divinità, nella quale sussistono tre persone, cioè un Padre, un Figlio e uno Spirito Santo. Paolo sta affermando che vi è una sola Trinità e anche un solo mediatore tra la Trinità e gli uomini, cioè Gesù Cristo uomo. Se oggi i figli di Dio hanno delle difficoltà a testimoniare della loro fede, è perché hanno le idee confuse riguardo in chi hanno creduto. Continuo a sentire nei dibattiti religiosi, a leggere in alcune riviste evangeliche, che ebrei, musulmani, cattolici, romani e protestanti hanno lo stesso Dio. Questo, bisogna dirlo con chiarezza, è una bestemmia che i primi cristiani, se potessero risuscitare, condannerebbero, in quanto è un'offesa all'unico vero Dio che si è rivelato sul Monte Sinai. È vero che il Dio della Scrittura è l'unico Dio, ma l'unico Dio degli uomini non è il Dio della Scrittura. Il desiderio di appiattire ogni fede, ogni religione, aprirsi al desiderio dell'esperienza del sacro, con l'obiettivo di credere senza appartenere, è un principio diabolico che avrà il suo apogeo con la venuta dell'Anticristo, il quale, proprio perché le cose continuano così, si presenterà come il Dio di ogni religione. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare, o da spirito, o da parola, o da qualche lettera come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. 2 Tessalonicesi 2, 1 a 4. Se ho ben capito, prima del ritorno di Cristo per rapire la sua Chiesa, un uomo si innalzerà sopra ogni forma religiosa, tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, e si proclamerà Dio. Fino a qualche anno fa un simile evento poteva sembrare assurdo, ma alla luce degli avvenimenti a cui stiamo assistendo nell'ambito delle religioni sarà possibile, perché queste avranno un punto in comune, e cioè saranno persuasi di credere tutti nello stesso Dio. Non vi può essere altra spiegazione. Così i cristiani che vivranno gli ultimi giorni prima del ritorno di Cristo avranno la stessa situazione sociale e religiosa dei primi cristiani al tempo degli apostoli. Come i primi cristiani rifiutarono ogni altra divinità a costo della loro vita, nello stesso modo i cristiani prima del ritorno di Gesù Cristo saranno perseguitati a morte, se non rifiuteranno di credere e di confessare che Gesù Cristo è Dio, l'unico vero Dio, e che nella Deità sussistano tre persone: Padre, Figlio, Spirito Santo. Solo il cristianesimo confessa tale fede, perché i musulmani credono sì in Allah e che Allah sia Dio, ma per loro non è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Anche gli ebrei credono in Dio, in Yahweh, ma non credono che Yahweh sia Cristo, il Figlio di Dio. I cattolici romani credono sì in Dio, che sia Trino, ma non credono che Gesù Cristo sia il solo Dio, al quale bisogna rendere culto, pregare e servire. Negli ultimi giorni, l'unicità del messaggio del Vangelo, la sua radicalità, sarà un ostacolo per unificare le confessioni di fede, così, poiché saranno un disturbo per la società, coloro che lo professano e lo vivono saranno perseguitati a morte. L'apertura al Vangelo da parte delle altre religioni è una farsa perché, a dire il vero, il Vangelo e chi lo predica nella sua interezza vengono sopportati più che accettati. Ma, come disse l'Apostolo Paolo 2000 anni fa, verrà il tempo. Infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. 2 Timoteo 4, 3 a 4. Proprio per questo, l'Apostolo aveva detto precedentemente con un cuore che ardeva per la verità: ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Predicare la parola significa annunciare l'Evangelo, il messaggio che presenta un unico vero Dio e, con il termine Dio, noi ci riferiamo soprattutto alla divinità di Israele, a Cristo. Gesù non ci ha lasciati alternative. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Giovanni 8:24. Gesù non chiede che lo si riconosca come un Dio, come fanno i testimoni di Geova, come un profeta, come fanno i musulmani, come un grande maestro di morale, come fanno gli induisti, come il figlio di Dio, ma incapace di salvare per grazia. Coloro che pongono fede in lui, come fanno i cattolici. Gesù Cristo vuole essere riconosciuto come la divinità di Israele, l'Elohim, cioè la divinità che era presente nell'Antico Testamento, il Dio creatore, l'Altissimo, il Salvatore. Il compromesso religioso è l'atto di debolezza di chi non ha più un'identità. Io posso raggiungere il confronto solo quando definisco la mia identità, solo quando saremo io meno l'altro, e la nostra distinzione, una diversità che non sarà motivo di umiliazione o di orgoglio. L'Apostolo Paolo poteva dire alla fine della sua vita: «Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto, e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno». 2 Timoteo 1:12. Essere pienamente coscienti della propria fede, conoscere in chi si crede, avere la rivelazione dell'unico Dio così come si è rivelato, appaga pienamente l'anima. E un'anima appagata non ha bisogno di fare la guerra per imporsi, di contendere con chi la pensa diversamente, ma si limita a testimoniare con gioia e sofferenza che l'unico Dio, il Dio della Scrittura, si è rivelato in Gesù Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Colossesi 2:9. Settembre 2004. Ellero.